Steve Nash 29 punti, non riesco nemmeno più a sorprendermi davanti a questo giocatore. Lakers che conduce 3-2, serie che sono diventate belle strada facendo, sembravano brutte, scontate e noiose, non è così, coach? No, ma io mi sono alzato ieri notte, non so per che motivo, ma perché ho mangiato troppo tardi, e ho detto, vedo cosa c'è in televisione, c'era la partita proprio alla fine, Artest fa prima quel tiro scriteriato, criminale, e poi Jackson, che veramente è un super, è un genio, ha lasciato lui in campo, era stato premiato, e Artest ha insistito perché lui è un giocatore da playground, e l'ha messo dentro, hai ragione tu, due serie che sembravano veramente decise anzi tempo, e molte critiche, non critiche ma commenti in America, qui le partite non sono, le serie non sono interessate, sempre 4-0, invece questa volta no, cioè anzi tutti i tifosi Boston Celtics stanno tremando per la partita di questa sera contro Orlando, che Orlando improvvisamente proprio erano proprio nella tomba, si sono rinati, stanno giocando, e Phoenix secondo me va a Phoenix per gara 6 pieno di fiducia, e se vincono gara 6 tornano a Los Angeles per gara 7, ragazzi, può succedere di tutto. È partita secca, può succedere di tutto come ben sappiamo. Grazie coach, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao, ciao ragazzi, ciao Flavio, ciao Carlo. Ciao, ciao, ciao. Mettiamo Danilo che sia Los Angeles Boston la finale, facciamo finta. Secondo te è così scontata? Non è... A favore di Los Angeles, grande favorita. Secondo me no, non è assolutamente scontata per due motivi. Il primo motivo perché l'ultima finale tra Los Angeles e Boston ha vinto Boston. Mm. E come ci ricordiamo due anni fa, giusto? Sì, giusto. E l'altro motivo è che Boston è entrata in forma proprio nei playoff. E quindi questo fa paura. Sembravano finiti, vecchi, stanchi, spogliatoio distrutto, eccetera, eccetera. Invece si sono compattati intorno a Garnett e a Rondo, che è un giocatore straordinario, proprio adesso quando conta. Esatto. Ma penso che poi, insomma, quando sono dei campioni, sono dei vincenti, hanno l'esperienza che serve, quindi in questi momenti comunque vengono sempre fuori. E c'è sicuramente l'apporto incredibile di Rajon Rondo, che ormai non sono più i big three ma sono i big four con lui. Palla spicchi. E noi torniamo. Quando segni parte questa musica al Madison, o no? Quando segno parte per due secondi funky gallo, sì. Tra un po' non ne possono più i newyorkesi. Però Carlo, sì. fa parte di una playlist che voi dovete consegnare in giro per tutte le arene dell'NBA. No, cioè... la si fa per il Madison, sì. Poi le altre arene lo fanno la squadra di casa. Noi lo facciamo per il Madison, poi ti danno la possibilità di scegliere delle canzoni. Io gli ho dato una playlist, quindi quest'anno cambiavano spesso. E da, insomma, il pezzo di Run This Town di Jay-Z e Rihanna al funky gallo di Zucchero. Tra un po' non ne possono più di sentirla, mi sa. Dici? Speriamo che non si stufino presto. Prima di Lorenzo e Marco, che sono in linea, cos'è il Madison Square Garden? Per me è un tempio, io quando ci entro, insomma, non ti dico preghiera, ma quasi. Sì. Giocarci com'è? È incredibile, insomma, veramente il tempio, la mecca della pallacanestro. Quando ci giochi è un'emozione continua ogni volta che ci giochi, che vai bene o male è sempre pieno, più di 19.000 spettatori di media, quindi insomma super. Ti posso capire, mio caro, e ti invidio ovviamente. Lorenzo, provincia di Ancona, buongiorno. Complimenti innanzitutto a Danilo, che ci fa emozionare a noi italiani. Mm-mm. Allora, una domanda volevo chiedere a te, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei giocatori europei nella Lega, cioè il fatto, per esempio, come tu hai avuto quest'anno con Denver, quello scontro un po' con Carmelo Anthony, quanto è importante giocare bene, con continuità, anche se non aver giocato i playoff, cioè come sono visti gli europei adesso rispetto a prima? Ma gli europei sono visti sicuramente meglio rispetto a prima, sono tanti anni che ci sono tanti europei che fanno crescere rispetto verso quella che è l'Europa. È chiaro che anche a livello personale è importantissimo il rispetto nello sport per la competizione, per la sana competizione, l'agonismo, la cosa che sta alla base ed è fondamentale, e quindi quando è un obiettivo conquistare il rispetto e dei compagni di squadra e soprattutto degli avversari e delle superstar NBA. Marco Torino, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti naturalmente. Grazie. Per la trasmissione meravigliosa e un caro saluto a Danilo. La mia domanda è molto semplice, nazionale. Ne ho sentito che, almeno pare che lui non voglia accettare diciamo le convocazioni. È stato detto che quest'anno non andrà. Ecco, lui è un talento enorme e tutto il movimento nazionale ha bisogno della sua personalità e del suo talento, quindi così volevo un po' sapere la sua impressione, soprattutto è un po' una richiesta quello che volevo fare io, la sua presenza in nazionale, perché coinvolgerà tantissimi giovani, ce ne sono tanti che amano il basket, quindi volevo un po' sapere sì, cosa ne pensavo di questa mia osservazione. Grazie a tutti. A lei. Bah, sicuramente io l'ho definito il no più difficile della mia vita, ma è stato veramente così. Per me, sin dagli primi europei, quando avevo 14 anni con la maglia azzurra, indossare la maglia azzurra sempre è un qualcosa di speciale, inevitabile, è un'emozione in più, è una motivazione in più che hai. Quindi non parteciparci ormai per 4 estati per problemi fisici è tosto, e non vedo veramente l'ora di iniziare a vincere assieme con la nazionale. È un gruppo giovane e talentuoso, e abbiamo tanta voglia di fare, di stare assieme, di iniziare a vincere assieme anche per il nuovo corso, per il nuovo allenatore, il nuovo presidente. Sì, sia chiaro che ci sarai, che giocherai con quella maglia quanto prima, non chiaro, quest'estate, chiaro. Ma naturalmente quella maglia la metterai, però paradossalmente per la prima volta. Il prima possibile. Ci sono dei messaggi sicuramente molto belli, ne cito uno. Coach Nico dice: ciao Danilo, grazie per tutto, perché da quando un mio boccia si allena con la tua maglia migliora a vista d'occhio, quindi questo è anche l'effetto, il tuo effetto sui ragazzini. Io avevo una curiosità che di questa domanda volevo farti da un po' di tempo, e cioè le prime volte che ti vedevo giocare in questa stagione immaginavo che fosse un po' frustrante giocare in una squadra che faceva un passaggio, un tiro, un passaggio, un tiro, un passaggio, un tiro, ogni tanto ti saltava via addirittura. È una pallacanestro diversa rispetto a quella europea. Quanto è stato difficile adattarsi a questo stile, questo tipo di gioco? Guarda, è stato difficile soprattutto all'inizio. È il gioco di Mike, quindi prevede questo, prevede se hai la possibilità, quando sei libero tiri, un passaggio si tira, e automaticamente fa sì che insomma si stabiliscano, anche non ci siano gerarchie particolari, e si stabilisca un po' questo tipo di chimica che prevede dei protagonisti diversi ogni partita. E quindi questo può essere un vantaggio, uno svantaggio, dal momento in cui riesci a capire il gioco e ad adattarti, poi secondo me è sempre un vantaggio. Giro un po' la domanda: quanto è stato frustrante giocare nei Knicks di quest'anno per un giocatore come te? Difficile, molto molto difficile. Vengo da una mentalità vincente, da una squadra che vuole vincere, che è abituata a vincere e che comunque sei di vittorie, che bisogna vincere. Ti insegnano, i miei allenatori mi hanno sempre dato e i miei genitori mi hanno trasmesso una mentalità vincente. Arrivare quindi a New York, dove erano tanti anni e sono tanti anni che non si vince, e insomma lo spogliatoio è quello che è, soprattutto in questi 2 anni non è stato facile, ma spero e intravedo un po' negli occhi, negli obiettivi della società, che cambierà presto. Questa è l'estate, questo è il momento di cambiare la storia dei Knicks. Torniamo agli ascoltatori naturalmente. Mauro da Verona e poi andiamo a Bergamo. Mauro, buongiorno. Sì, eccomi qua. Intanto i complimenti a Danilo per il campionato, soprattutto come avete detto adesso, in una squadra difficile come New York. La mia domanda era semplicemente questa: qual è il suo obiettivo di Danilo per l'anno prossimo? E soprattutto se è un suo obiettivo andare a giocare lo Star Game già l'anno prossimo, perché secondo me gli mancava anche poco anche quest'anno per poterci andare. L'obiettivo lo scrivo qui e poi sentiamo la risposta e vediamo se ho indovinato. L'obiettivo a livello insomma di squadra è quello di arrivare ai playoff sicuramente, me lo aspetto, se lo aspetta la squadra, se lo aspetta la società e soprattutto i tifosi. E poi insomma l'obiettivo All-Star Game è chiaro che è una cosa che fa assolutamente piacere. L'All-Star Game ci vai se hai delle belle statistiche e sei in una squadra vincente che ha i playoff, quindi bisogna legare queste due cose qui. Non è diciamo un obiettivo, però è sicuramente una cosa che fa enormemente piacere. Io ho scritto obiettivo è vincere. Assolutamente sì, l'obiettivo è non il titolo, ma essere diventare una squadra vincente. Sì, hai perfettamente ragione, si diventa una squadra vincente dall'allenamento poi alla partita, non lo si può fare solo in partita, bisogna costruire una mentalità vincente, lo si fa dall'allenamento. Stefano da Verona, già fatto Stefano da Verona? No, Stefano erano due ascoltatori da Verona, eccoci qua. Dica. Ciao, intanto complimenti a Danilo, lo seguo sempre, è un grande. Io mi ricordo suo padre qui a Verona che difendeva come un matto e non la buttava dentro, non faceva mai paniere, e lui invece fa un sacco di... Lui fa tutte e due le cose. Lui fa tutte e due le cose, e quindi mi emoziona vedere un gallo che la piazza da tre, è una grande emozione. E volevo sapere cosa ha tratto dal padre in difesa, cosa gli ha, che spunti gli ha dato, quando insegnamenti gli ha dato. Cosa ti ha dato di cestistico, Vittorio? Sicuramente mi ha insegnato a meritarmi quello che voglio. Per raggiungere gli obiettivi devi allenarti e allenarti più degli altri, fare più sacrifici degli altri. Puoi avere lo stesso talento, ma quello che fa la differenza non è il talento ma la testa, è quello che fai prima di arrivare alle partite, quello che fai prima e dopo un allenamento più degli altri. Ecco, scherzando ogni tanto con tuo padre anche da questi microfoni si dice che tutto sommato di tecnico aveva non tantissimo da insegnarti, soprattutto dal punto di vista del tiro. Non la piglia benissimo. No, esatto. Ha fatto un grande lavoro psicologico. Ecco, dal punto di vista della mentalità, forse è stato il lavoro più importante. Sì, sì, lavoro importantissimo, però ti dico, come sottolineo sempre, è stato un lavoro fondamentale anche quello di mamma Marilisa. Adesso è chiaro che il papà ha giocato a pallacanestro, ha vissuto un ambiente da pallacanestro, ma mia mamma nella sua vita e nel suo lavoro è la considero assolutamente una vincente, è tostissima e ho preso sicuramente anche da lei. E il figlio lo educhi, sono stato educato e poi viene trasformi a livello naturale poi in campo tutto quello che la famiglia ti insegna. Tra l'altro anche lei è una grande sportiva, anche tua mamma, quindi ti hanno insegnato ad essere professionista nello sport, io credo. Sì, sì, per essere professionista nello sport comprende insomma tante cose, però se lo sei puoi fare dei grandi passi e fare delle grandi imprese, se no non arrivi da nessuna parte. Io direi che sentiamo anche Matteo da Bergamo prima della borsa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto a Danilo. Beh, innanzitutto una cosa veloce, volevo un po' ricollegarmi all'ascoltatore precedente. Ho avuto la fortuna quest'anno di vedere proprio al Madison la partita tra New York e Denver. E devo dire che Danilo, insomma, anche in difesa contro Carmelo nel quarto quarto ha fatto vedere, insomma, gliela fatte vedere, diciamo, insomma, ecco. E poi niente, la domanda era la differenza, se esiste, penso di sì, che c'è dal punto di vista della preparazione fisica italiana con quella invece dell'NBA. La prima differenza fondamentale sta nel training camp, ovvero nella preparazione. Qua in Italia serve a fare la preparazione in montagna, corri per una settimana, non tocchi la palla, è un lavoro fisico. Di là la preparazione, questa preparazione la fai da solo con il tuo preparatore in estate. La squadra si aspetta che tu, essendo un professionista, arrivi pronto alla preparazione di squadra, che comprende solo mettere giù degli schemi e poi giocare tra di noi, insomma. Senti, ma non pensi mai che fai venire un sacco di gente negli Stati Uniti? C'è un sacco di gente che viene negli Stati Uniti a vederti giocare. Non ci pensi mai? Sinceramente ogni tanto ci penso, perché penso che delle motivazioni per un giocatore siano fondamentali, e io quando penso che tante persone vengono al Madison per vedere me, beh, insomma, devo ringraziarle, devo sicuramente è una motivazione in più per far bene, e per insomma, hanno pagato il biglietto, devo anche dare il massimo per loro, quindi sono una motivazione in più per me. Palla spicchi. Allora, torniamo sempre qui vicino a me, Danilo Gallinari, ascoltatori tutti invitati, speriamo di riuscire a parlare con tanti di loro. 800 24 00 24, numero verde. Non possiamo dimenticare però i playoff nostri che sono in pieno divenire. Abbiamo deciso di istituire un appuntamento fisso, playoff visti dal campo con Marco Mordente. Sentiamo cosa ci ha detto oggi. Credevo effettivamente che Cantù potesse portare a casa un 3-0 o un 3-1. Alla lunga probabilmente l'infortunio di Ortner e il fatto che giocare fuori casa due partite così abbia un po' condizionato Cantù. Mi dispiace, ma sono convinto che stasera Cantù riuscirà a portare a casa e entrare nella semifinale. La cosa che mi fa piacere è che noi squadra a Milano siamo riusciti a giocare con una veramente una particolare serenità, e mi fa piacere che non solo abbiamo vinto, ma che in 5, in 6, in 7 hanno fatto più che una buona partita, e tant'è vero che alla fine con tranquillità abbiamo gestito anche il finale. Caserta, intanto non mi aspettavo che potesse finire 3-0, perché credevo che Roma alla fine riuscisse a vincerne una sicuramente a Caserta e poi provare a portare a casa la serie a Roma. Invece proprio hanno proprio mollato, nel senso che non sono mai riusciti a giocare, perché Caserta ha imposto il proprio ritmo, e questo vuol dire che dobbiamo stare ancora più attenti. Noi siamo andati lì a novembre, abbiamo perso per dei liberi sbagliati, dove potevamo chiudere la partita, e mentre a febbraio al ritorno proprio lo lasciano dominati con un Jones strepitoso. È proprio secondo me lui la chiave di quella squadra. Se lui riesce a giocare, se lui riesce a giocare, noi gli permettiamo di fare le cose semplici, di prendere i suoi tiri, di prendere tanti rimbalzi, secondo me diventa dura. Dobbiamo invece anche lì andare giocare con freddezza, limitare lui, limitare Di Bella. La nostra forza dovrà essere il fatto che siamo più lunghi e che abbiamo due partite da giocare lì. E se vogliamo andare in finale, dobbiamo almeno dimostrare durante i playoff, visto che un campionato non l'abbiamo fatto, che siamo più forti di loro. Questo è Marco Mordente. Sai, Daniele, un giorno chiama un ascoltatore e dice: ma visto che la stagione di New York è finita, non è che per i playoff Milano può riprendere Danilo Gallinari? Gli abbiamo spiegato che non era così semplice. Non è così semplice. È chiaro che insomma seguo i playoff di Milano e Milano con particolare attenzione e attaccamento alla maglia dell'Olimpia, quindi spero che possano arrivare in finale, lo spero per Milano soprattutto, lo spero per il Bullo, per il Mordens, per il Mancio, e insomma forza Milano. In attesa di affrontarli il 3 di ottobre, partita che pochi fortunati, sì, biglietti pochi esauriti fortunati, in 12 ore. Ci sono degli ascoltatori che ci scrivono su questo, qualcuno riuscirà ad andare, qualcuno no, addirittura qualcuno chiede a Danilo se gli può trovare un biglietto, evidentemente sì, siamo alla disperazione totale. Li distribuiamo qua sotto dopo la trasmissione. Esatto. Ovviamente no, non presentatevi. Il pubblico di Milano ama il basket, Danilo, al di là del fatto che sono i Knicks, ci sei tu soprattutto, c'è la suggestione di questa sfida, però vuole vedere uno spettacolo di questo livello. Sì, vuole vedere uno spettacolo di questo livello. L'NBA costruirà una partita in stile NBA, quindi soprattutto tutto l'entertainment che ci sarà al di fuori della partita. Sarà un evento storico, unico, speciale. Insomma, se ci penso mi emoziono già adesso, quindi sarà veramente una cosa incredibile. Non so cosa succederà quel giorno. Un peccato che siano solo in 11.000. È un vero peccato. Guarda, se ci penso adesso, appena torno in agosto a New York, ho appuntamento, devo parlare un po' con quelli dell'NBA per cercare di trovare una soluzione per accontentare un po' tutti, perché mi dispiace che, insomma, sono contentissimo della richiesta, mi dispiace che giochiamo comunque al forum dove più di tanti non ce ne stanno. Fare una partita a San Siro, secondo me, per esempio, mica male, tutti a San Siro non sarebbe male. Chiaro che le questioni climatiche diventano fondamentali, però magari lo si può coprire come hanno fatto a Dallas. Il problema è che Dallas non è Milano, Milano non è Dallas, l'Italia non sono gli Stati Uniti. Esatto. Ahimè. Emanuele, Padova, poi Stefano, Genova, Alessio, provincia di Como. Emanuele, buongiorno. Buongiorno. Due considerazioni forse un po' polemiche. Sì. L'altro giorno lei si è meravigliato di Roma, sì, che fosse uscita. È difficile pensare di andare avanti quando hai dei lunghi, dei 2.15 italiani, fulcro della nazionale. Crosarioli. Che ti fanno, io non ho fatto nomi, li ha fatti lei, sì, che ti fanno passi e portano blocchi e non costruiscono assolutamente niente. Questa sì è la fotografia di Roma, se mi permette. Sì. Per cui dico, molto meglio Caserta, anzi. Limitativo però, limitativo ridurre il discorso di Roma ai passi di Crosariol, secondo me. Non do colpa a Crosariol. No, no, no, no, però insomma, visto che abbiamo puntato dito su un giocatore, secondo me Roma rimane deludente per l'esito di questa stagione, per le risorse messe e anche per un organico che insomma non mi sembra da eliminazione di nuovo al primo turno dei playoff, a prescindere dagli interpreti. La verità è che non si costruisce nulla, Emanuele. Lì a Roma come a Milano non si costruisce nulla, da un anno con l'altro, è questa la verità. Forse è meglio costruire il basket in provincia. E la seconda considerazione, sì, invece per Gallinari. Io guardo il basket in TV, io mi diverto se vedo Barcellona, se vedo le squadre NBA che finiscono 120 a 110 non mi, sì, diverto. La pallacanestro per me è un'altra cosa, chiedo scusa, ma no, ma è assolutamente diritto di cittadinanza questa considerazione. Sono mondi diversi, è un modo diverso di giocare a pallacanestro. Anch'io mi diverto di più a guardare l'Eurolega, in tutta onestà. Poi arrivano i playoff e allora vediamo lo spettacolo più bello del mondo. Sì, anche perché i playoff della NBA sono diversi dalla stagione regolare, sinceramente. Sì, sì, sicuro. Ma poi penso che anche in Italia, cioè la stagione regolare sia diversa dai playoff. Certo. È sempre così. Sono due modi di giocare diversi, due mentalità diverse, ci sono regole diverse, bisogna ricordare che ci sono tante regole diverse che probabilmente molte persone non conoscono, che fanno sì che il gioco sia diverso, inevitabile. Cioè ci sono dai passi in partenza, i tre secondi alla linea dei tre punti, che secondo me è il segreto della la differenza, insomma, del gioco che c'è. E ci sono tante altre cose che fanno sì che il gioco sia diverso. E sono due mondi diversi, è chiaro che insomma anche l'Eurolega, anche secondo me, non è male. Quindi adesso, spostando la linea indietro, cosa che accadrà l'anno prossimo, come cambierà davvero così tanto nella pallacanestro europea? Secondo te, come la vedi? Secondo me cambierà qualcosa. Cambierà qualcosa, ma non ancora, chiaramente, non essendo ancora come la linea NBA, non cambierà come in NBA. Il concetto secondo me è questo: allora, se tu sposti indicativamente e mentalmente gli allenatori, i giocatori, chiunque gioca a pallacanestro costruisce mentalmente un gioco partendo dalla linea dei tre punti. La linea dei tre, sì, punti, certo, è un punto di partenza, certo, per tutti, e quindi giochi un'uscita dei blocchi, un blocco, qualsiasi cosa si svolge lì. Se tutto questo, quindi il fulcro, si muove più lontano, è chiaro che se tu devi fare un recupero difensivo, devi fare qualcosa dalla distanza del canestro, devi fare uno o due passi in più. Uno o due passi in più nella pallacanestro, con un gioco di attimi, diventano, certo, fondamentali. Tantissimi. Mentre per i tiratori che ci sono da queste parti, io credo sia solo una questione di tempo e di abitudine. Sì, sì, sì, assolutamente. Stefano da Genova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno intanto anche a Danilo Gallinari, che ritengo sia già di giovane età il giocatore più forte italiano di tutti i tempi, per cui può solo che migliorare. Io volevo fare questa considerazione, purtroppo non so se l'ha fatta qualcuno prima, ma ci sto parlando da poco. Può essere che nella prossima stagione NBA LeBron James da Cleveland passi a New York. Alla piccola, ruolo presidiato molto bene dal nostro Danilo. E non so se lui ha fatto delle considerazioni sul tema, e se, qualora l'ipotesi dovesse realizzarsi, quindi anche la maggior parte dei minuti dovesse no, guardi, non penso sarà una questione di ruolo, dovesse arrivare un giocatore con il processo, ma non penso ci possa essere un problema di questo tipo, nemmeno teorico. Sì, no, guarda, LeBron James è un giocatore che può giocare in più posizioni, e il poter giocare in più posizioni nel gioco di Mike diventa più facile, perché sì, gioca Mike dal playmaker alla guardia, all'ala, si fanno tutti gli stessi movimenti e tutti hanno gli stessi obiettivi nel gioco, quindi penso che si troverà sicuramente una soluzione. Alessio, provincia di Como, poi Oscar Daudino, ovviamente un sacco di ascoltatori, vi faccio una preghiera, siate brevi nei vostri interventi così riusciamo a parlare in tanti. Alessio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, cerco di essere brevissimo. Bravo. Due domande da lì. La prima è: si deve migliorare allenandosi, no? Ma hanno il tempo di allenarsi con i continui viaggi che fanno? Il secondo è: che rapporto hanno con i fans fuori? Cioè, sono gente avvicinabili, questi le NBA, o sono marziani con le antenne? Anche avvicinarli, è questo il rapporto che hanno con i fans. Interessante. Adesso le faccio rispondere subito dopo il traffico. Grazie. Palla spicchi. Allora, rimaniamo alle risposte che Danilo deve dare. Tempo per gli allenamenti ce n'è pochino, e questo lo sappiamo. Rapporto tra fans e giocatori. È un rapporto bellissimo, tranquillo e avvicinabilissimo. Sì. I fans hanno la possibilità di vederci e nelle apparizioni che noi organizziamo, che per contratto abbiamo con i Knicks, e se cammino per strada e sono assolutamente avvicinabile, disponibile per qualsiasi tipo di autografo, foto, assolutamente mi piace. Tutto normale, normalissimo. Sì, sì, sì. Anche i rapporti con la stampa sono abbastanza particolari da quelle parti. I rapporti con la stampa sono particolari, soprattutto a New York, che è una città unica nell'NBA, perché se le altre squadre hanno 2-3 giornalisti che li seguono, noi ne abbiamo ogni partita una, insomma, 20-25 che entrano in spogliatoio, e tutti si parla della partita, quindi inevitabilmente o ti fa le stesse domande, comunque ti chiedono tantissime cose, o te le ripetono apposta per vedere se sei coerente, dici sempre le stesse cose oppure dici delle cavolate. Oscar da Udine. Sì, buongiorno, complimenti. Buongiorno a tutti per la trasmissione. Grazie. Sono un grandissimo tifoso di Gallinari, è una grande emozione per me sentirlo e poter parlarci, e volevo appunto chiedere se quando si gioca, quando si difende contro grandi stelle, James e via dicendo, se questi usano il loro carisma in campo e hanno qualche trucco, diciamo, psicologico anche contro giocatori, diciamo, più giovani come il Gallo. Hanno un grande carisma, ma non viene, insomma, utilizzato nessun trucco. È chiaro che sono giocatori incredibili, perché riescono a mettere assieme delle doti fisiche e tecniche fuori dalla norma. Adesso l'altra voce che racconta l'NBA, oltre a Dan Peterson naturalmente, racconta l'NBA, Danilo Gallinari in Italia, il nostro amico Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Buongiorno. Ho fatto sentire in apertura la canzoncina, quella di Beyoncé, ti ho fatto sentire un giorno e tu hai detto sono imbarazzato, è troppo bravo anche a cantare. Ti ricordi? Sì, sì, troppo bravo, troppo. Stavamo dicendo, non so, Danilo l'ha buttata lì, torno in America e parlo con quelli dell'NBA, perché la partita con Milano, per la partita con Milano il forum è piccolo, chissà San Siro, possiamo coprirlo come a Dallas, la vedo dura, però San Siro non sarebbe male, per quella partita. No, non sarebbe male, tra l'altro non è neanche un'idea così peregrina, solo il problema è che il 3 ottobre fa un po' freddo, però se lui si mette i calzoni lunghi, secondo me si può fare. Sei pronto a mettere i calzoni lunghi, eh? Io jeans quella partita lì. Assolutamente sì, sì, sì. No, però comunque dai, penso, a parte che vabbè, Flavio, ringrazio Flavio, però è un po' di parte, gli faccio sempre anch'io un casino di complimenti, ma lui è troppo buono. È vero? No, di la verità, è vero che sei troppo buono. Normalmente non ho questa immagine, per una volta me la tengo, dai. Senti Flavio, noi stiamo continuando a guardare mentre chiacchieriamo Lakers Phoenix di questa notte. Dicevamo prima, serie di playoff all'inizio brutte, un po' noiose, no? Sembravano chiuse praticamente, sono fiorite all'improvviso queste serie, fino a diventare bellissime e molto incerte. Osservazione correttissima, la partita di stanotte ancora mi ha generato una tempesta di emozioni che non si placa. Direi che la forza dell'NBA è che non c'è il Grande Fratello, non è il wrestling, però c'è una consapevolezza elevata da parte di chi gioca, di chi sta attorno, che questo è quello che vuole vedere la gente, e quindi senza sistemarlo e senza provocarlo come nel wrestling nasce in maniera naturale. E se qualcuno non si è divertito a vedere la gara 4 e la gara 5 di Phoenix Lakers, non si sta appassionando alla domanda sport. Ma non è che i Magic, esatto, cambi sport, no, anzi cambi con lo sport, ci sono tante attività del sapere umano, tutte molto degne e legittime, però lo sport non gli interessa, è giusto che faccia dell'altro. C'è sempre la briscola, no, Danilo? Esatto, quante partite a briscola? Con chi? Con i familiari, con gli zii. Sei bravo anche lì, anche a briscola? Mi piace molto giocare a carte, quindi briscola, scala 40, briscola chiamata, insomma, tutti questi giochini qua interessanti in famiglia li si fanno sempre. Se pensare a lui che gioca con Al Harrington a briscola chiamata è abbastanza. No, ma soprattutto se vince anche a briscola, Flavio, io metto giù la cuffia e vado via, te lo dico, io te lo dico. almeno a briscola chiamata non sai se è il tuo compagno fino alla fine, quindi ti puoi salvare. Ascolta Flavio, prima di salutarti, i playoff italiani invece sono un po' meno fioriti di quelli americani, ma stasera abbiamo gara 5, la bella tra Cantù e Bologna, per vedere chi va a sbattere contro Siena. Anche questa serie sembrava andata, invece si è rimessa in equilibrio, e oggi potrebbe essere la Virtus la squadra favorita questa partita. Beh, io credo che l'altra grande lezione dei playoff NBA è che è assolutamente pernicioso anche per la propria reputazione vivere solamente di quello che è appena successo. Cioè, se adesso dovessimo dire, per esempio, che Steve Nash è un perdente perché è andato dentro quell'ultimo tiro in quella maniera, saremmo dei folli. Così come è folle dire i Magic sono una squadraccia perché sono sotto 0-3, o adesso sono i campioni del mondo perché hanno rimontato 3-2 e forse hanno anche la possibilità di giocarsi in gara 7. Vale anche per la serie tra Cantù e Bologna. È chiaro che con Collis o senza Collis c'è differenza, c'è differenza anche con gli infortuni e le situazioni di Cantù. Io spero che vedremo una partita intensa e giocata con quel tipo di mentalità di cui abbiamo parlato per i playoff NBA. Poi il resto mi sembra veramente secondario. Ne parliamo domenica sera dalle 8:30 alle 9, Flavio. Sarà un mio onore. Grazie davvero. Grazie Flavio Tranquillo. Io volevo chiedere a Danilo di un'iniziativa che so che gli sta molto a cuore. Parliamo di un allenatore, Tarcisio Vaghi, che tra l'altro ha allenato diverse squadre lombarde, che insomma c'è un'iniziativa particolare. Però Danilo, raccontala tu, così almeno riusciamo anche a sensibilizzare i nostri ascoltatori. C'è questa iniziativa secondo me è molto importante. Io Tarcisio lo conosco, ci conosciamo da tanto tempo, ho anche purtroppo perso una finale scudetto contro di lui. Lui è allenatore di Varese, categoria a cadetti mi sembra, a Palermo. E no, comunque c'è questa iniziativa che sarà domenica mattina dalle 9:30 alle 10:30 a Gazzada in provincia di Varese, dove con l'AIMO, l'Associazione Italiana Midollosso, verrà fatta questa manifestazione, con poi anche la possibilità di donare. E penso che sia una cosa molto importante. Non penso che le persone siano molto informate su queste cose qua, soprattutto su come donare per aiutare le persone con questi problemi, e quindi insomma vorrei sensibilizzare un po' tutti, penso che sia una cosa fondamentale. Ripetiamo l'appuntamento, quando, a che ora? Domenica dalle 9:30 alle 12:30 a Gazzada in provincia di Varese. Senti, mettilo su quell'arnese che usi su Facebook. Assolutamente, su Facebook tra l'altro anche da lì arrivano grandi complimenti per Danilo, chiaramente, perché tu non la guardi la pagina, però noi la alimentiamo. Io non sono capace, abbiate pazienza con me. Senti, quando torni a trovarci, ce la fai, non so, 3 ottobre sei da queste parti, eccetera, eccetera, sarà abbastanza un casino, però proviamoci, eh? Ci proviamo assolutamente, sai che per me è sempre un piacere, mi sento come in famiglia qua, quindi va benissimo, lo sai che quando posso la facciamo. Grazie davvero Danilo Gallinari. Io volevo ringraziare anche Riccardo Belli che ce l'ha portato, Danilo Gallinari, e... grazie Flavio Suardi, Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadori in regia. domenica dalle 8:30 alle 9, il programma rimane standard, domani dalle 5 alle 6 a Tempo di Sport, domenica dalle 5 alle 7 parliamo di Mourinho finché volete, e... sì, parliamo di Mourinho finché volete, dalle 8:30 alle 9 resta l'appuntamento con Palla a Spicchi fino all'assegnazione dello scudetto, quindi sarà già tempo di mondiali, sarà già giugno inoltrato. Grazie a tutti, a domani.